Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo già parlato di come la capacità dell'informatica di maneggiare la complessità possa rivelarsi estremamente utile in chiave risparmio energetico. Stasera continuiamo su questa strada ragionando sul contributo che l'informatica può dare alla gestione di una flotta di veicoli. Sarà capitato a tutti, per raggiungere una data destinazione, di domandarsi: faccio il tragitto A oppure il tragitto B? Pensiamo ai taxisti, per esempio. In questi casi, per decidere, il guidatore si affida all'esperienza e, per così dire, al proprio naso, e di solito funziona, anzi in molti casi il risultato può essere migliore di quello che si potrebbe ottenere con un sistema informatizzato. Ma se invece di avere un singolo veicolo ne abbiamo molti che devono in qualche modo coordinarsi tra loro, ebbene in questi casi l'autista non può certamente avere la visione globale che invece garantisce l'informatica. Per parlarci di ciò è tornato a trovarci Diego Ragazzi del CEFRIEL, il centro di formazione nelle tecnologie ICT del Politecnico di Milano. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Ecco, ci faccia qualche esempio di casi in cui l'informatica può appunto dare un contributo essenziale alla gestione di una flotta di veicoli. E di esempi ce ne sono veramente tanti. Pensiamo alle numerose flotte che operano nelle reti di raccolta, le reti di distribuzione, le reti di manutenzione esistenti nel nostro paese. Facciamo qualche esempio concreto. Le reti di raccolta sono per esempio quelle per la raccolta dei rifiuti, certo, rifiuti solidi urbani. In questo caso ovviamente c'è una flotta di veicoli preposti alla raccolta quotidiana, che di solito fanno un giro che è prefissato. Ecco, qui l'informatica riesce invece a modificare questa situazione? Sicuramente. Personalmente ho avuto modo di confrontarmi con diversi operatori del settore e vedo che molti ormai stanno affidandosi a sistemi informatici anche piuttosto complessi per determinare le rotte migliori della flotta di mezzi, non solo le rotte ma anche la distribuzione ottimale dei cassonetti sul territorio. Un esempio di una rete diversa, le reti di distribuzione. Pensiamo alle reti di distribuzione dei quotidiani, per esempio, dove l'aspetto logistico è sicuramente preponderante. Oppure un altro esempio di rete di raccolta può essere le reti di vending machine, le avrete viste tutti alla stazione. Certo, certo. Queste macchinette che distribuiscono i prodotti più diversi. Ecco, in quel caso dietro l'offerta di prodotti c'è una rete anche piuttosto complessa di distribuzione e di raccolta. C'è un'esperienza che voi del CEFRIEL avete fatto, per esempio, proprio su questo tema della distribuzione dei quotidiani. Sì, sicuramente. In questo caso ci sono due problemi. Da una parte bisogna ottimizzare il percorso dei mezzi e eventualmente diminuire il numero di mezzi. Dall'altra c'è il problema di controllare precisamente i tempi di arrivo della merce, perché il distributore, se non rispetta dei limiti temporali molto precisi, può incorrere in penali che possono essere molto onerose. Ah, ok, quindi se non arriva col pacco al momento giusto paga una multa, insomma. Esattamente. E in questo caso un sistema informatico è di estremo aiuto, perché non solo consente di ottimizzare i percorsi dei mezzi, ma anche di monitorare in tempo reale i tempi di uscita della merce dai poli di produzione e di arrivo della stessa nei poli di distribuzione. D'accordo, abbiamo anche fatto riferimento alla raccolta rifiuti, alle squadre di manutenzione dei cassonetti. Ecco, qui viene fuori molto bene il ruolo dell'informatica, perché in questi casi c'è un problema di adeguamento in tempo reale, come dire, dei movimenti di questa flotta in funzione di esigenze che continuano a cambiare. Cioè il giro non è sempre lo stesso, per intendersi, ma può cambiare significativamente. Proviamo a spiegare un pochettino, a entrare un po' più nel dettaglio, per esempio sui rifiuti. Sì, allora nel caso dei rifiuti, ma anche in altri casi, il percorso dei mezzi e le operazioni che devono essere svolte dipendono in maniera sostanziale da quello che accade in tempo reale sul campo, quindi se i cassonetti si riempiono oppure no, a che ora si riempiono e a che livello si riempiono. Se noi abbiamo tutte queste informazioni in tempo reale attraverso una sensoristica distribuita sul territorio, saremo in grado di fornire a un sistema sofisticato di tracciamento delle rotte tutti gli input necessari per calcolare i percorsi ottimi. Quindi in pratica si passa da una situazione in cui i camioncini fanno per esempio un loro giro prefissato sempre lo stesso e raccolgono quello che trovano, ad una situazione che continua a mutare dinamicamente, per cui questi camioncini vengono reindirizzati laddove per esempio ci sono dei cassonetti pieni e evitano di passare dove troverebbero poco. Ecco, più o meno che economie si riescono a raggiungere? Mi rendo conto che è veramente impossibile qui dire un numero, però su che ordine di grandezza siamo? Allora, tipicamente si va da un minimo del 3-5% a situazioni in cui si riesce a risparmiare anche sostanzialmente, si riesce a superare anche il 30%. Ah, d'accordo, va bene. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Bene, prima di lasciarci segnalo a tutti che il Politecnico di Milano insieme alla LUIS e al fondo D-Pixel ha avviato una competizione di idee imprenditoriali su ambiente ed energia. Trovate tutto su un sito www.techgarage.eu che raccoglie le idee, la raccolta continuerà fino a tutto il 15 marzo. Domani invece noi parliamo di Kilowattene, un software gratuito realizzato dall'Enea che aiuta a ridurre i consumi in casa. Buona serata.